La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi, 24 secondi, in diretta qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda il numero di telefono 800 24 00 24 per intervenire. Vi pongo subito la questione. Noi vorremmo in questi giorni, ogni volta programmiamo di parlare di altro piuttosto che del terrorismo della Francia, poi lo sapete, i fatti incalzano, ancora non abbiamo capito nel blitz che è cominciato alle 4 di questa mattina, che è andato avanti fino a metà mattinata a Saint-Denis nella periferia nord di Parigi, che cosa davvero abbiano chi davvero abbiano arrestato e chi siano i morti nell'operazione. Sta di fatto che è un'altra cellula sgominata, e sapete dai fatti di ieri sera, e quindi continuiamo a porci un problema oggi diverso da quello di ieri. Ieri abbiamo visto che l'Italia spende più per la sicurezza di altri paesi europei, della media di altri paesi europei, e anche molto di più della Germania, ma spende peggio. Oggi ci poniamo un altro problema, io sono interessato a capire come la pensate su questo. Ma voi, visto che c'è una specie di scambio tra più sicurezza e meno diritti, a che diritti siete disposti a rinunciare, che vengano attenuati, soprattutto quelli di comunicazione, di privacy su internet, a telefono, spostamenti? Siete disposti davvero a rinunce su questo? Vi leggo solo alcune opinioni oggi tratte dai giornali. Per esempio, il procuratore nazionale antimafia, che abbiamo avuto ospite ad Attenti a noi due ieri mattina insieme ad Alessandro Milan, è convinto di sì, che valga la pena e che sia necessario. Franco Roberti, il procuratore nazionale antimafia, ha detto: un fatto è certo, il valore della vita supera quello della riservatezza, e il procuratore nazionale antimafia chiede al governo e al Parlamento infatti nuove norme pro intercettazioni a tappeto, computer in remoto, telefoni, eccetera eccetera. Luciano Violante, ex presidente della Camera, magistrato, non vi devo ricordare l'importanza di Luciano Violante nell'evoluzione della magistratura associata alla sinistra italiana, la pensa diversamente invece dal procuratore nazionale antimafia. Parole testuali di Luciano Violante: siamo già molto controllati, la richiesta di ridurre ancora i diritti collettivi è strumentale. Quindi è proprio una posizione radicalmente opposta, o comunque molto diversa dalla richiesta esplicita del procuratore nazionale antimafia. Andiamo poi ad Antonello Soro, esponente del PD in passato, quando faceva politica, oggi garante della privacy, succeduto al professor Pizzetti. Antonello Soro, come garante della privacy, dichiara: i controlli più invasivi di cui leggo e che alcuni invocano, leggi il procuratore antimafia, sono dannosi. Serve un'intelligence invece più preparata e rete informatiche meglio protette. Quindi, come vedete, le opinioni sono molto diverse, però il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, perdonate se non me l'ho ricordato, dice: noi ne abbiamo bisogno. Allora io vi chiedo, ma voi pensate che sia giusto assumere nuove norme per cui tutti veniamo intercettati in remoto senza rendercene conto e senza saperlo? Perché il procuratore antiterrorismo e antimafia ieri a esplicita domanda gli abbiamo chiesto, io e Alessandro: ma queste facoltà più ampie che voi chiedete, le chiedete sempre con autorizzazione del magistrato? La risposta: sì, ma naturalmente senza che i soggetti lo sappiano. Allora, ovviamente voi potreste dirmi: ah vabbè, ma tanto riguardano i sospetti di terrorismo. No, riguardano vagliare tutte le informazioni di ciascuno di noi per identificare, appunto, immaginare di seguire delle piste di qualcuno che non è noto. Quindi io vi dico la verità, io sono contrario, però la mia opinione conta poco, a me interessa sapere la vostra. Questo tema si incardina, e qui arriviamo al nostro ospite, prima delle vostre telefonate, su una questione che è molto intricata, molto complicata, perché sulle norme della vigilanza e tutela dei dati di ciascuno, no? La privacy da una parte, e dall'altra su come considerare da questo punto di vista ciò che si può fare e non si può fare sulle reti diverse, fisse e mobili, delle infrastrutture di comunicazione, c'è un enorme querel in corso, uno scontro vero e proprio ai più alti livelli tra tutta l'Unione Europea da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. È preesistente a quello che sta avvenendo adesso, cioè la recrudescenza del terrorismo, ma naturalmente complica dannatamente le cose. Che cosa è successo? È successo che la materia della tutela e della sorveglianza dei dati in rete è in realtà uno dei terreni di scontro su cui si sta trasformando lo scontro industriale tra l'Europa contro le grandi piattaforme tecnologiche internet e social americane, contro Facebook, Google e così via. Sapete che c'è un contenzioso fiscale enorme, ma ce n'è uno proprio che riguarda oramai i dati e la sorveglianza sui dati. Ed è accaduto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea recentemente, con una sentenza, la sentenza Schrems, si chiama così, ha ribaltato lo schema che era seguito dalla Commissione Europea nei confronti degli Stati Uniti esattamente su questo terreno. C'erano delle norme europee e un protocollo che si chiamava Safe Harbor, cioè porto sicuro, che a dire la verità si fondava sul presupposto che l'Europa considerava gli Stati Uniti un paese non sicuro per la protezione della privacy, però la regola che veniva seguita per la protezione dei dati è che però il divieto, per così dire, di tenere i dati dei clienti europei, e quindi di export dei dati dei clienti europei verso gli Stati Uniti, veniva in buona sostanza riconosciuto come aggirabile dalle norme europee, perché bastava che le imprese o i gruppi di imprese americani fossero comunque certificate da questo protocollo europeo che si chiamava Safe Harbor, cioè come sempre uno dei capolavori delle complicazioni delle norme europee. C'era una sfiducia di fondo e dall'altra parte si disciplinava come aggirarla. Allora, il problema è che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ribalta questa roba e afferma solo il principio della sfiducia, per cui adesso c'è un negoziato che è ricominciato da capo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per vedere di rimettere insieme delle regole comuni esattamente sulla privacy e la tutela dei dati. Cosa succede questa mattina? Succede questa mattina, alla luce del giro di vite che viene annunciato in molti paesi europei sul controllo dei flussi di informazione in rete, nei poteri speciali che sono chiesti nella seduta congiunta al Parlamento al presidente francese, allora viene rivolta una domanda a esattamente chi per conto dell'Unione Europea si sta occupando di rimettere in piedi un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti esattamente sul tema su cui è intervenuta recentemente la Corte Europea di Giustizia. E un membro della commissione si chiama Vera Jourova e la commissaria europea per la giustizia, i consumatori e l'eguaglianza di genere, e alla domanda che gli ha rivolto la testata Il Politico dice: ma voi siete a buon punto per mettere in piedi un nuovo accordo con gli Stati Uniti che tenga conto anche di queste rafforzate esigenze di controllo, quindi non di tutela della privacy, ma a questo punto di controllo dei dati e sulle informazioni recenti a cui chiedono di avere accesso tutti i governi e i servizi dei paesi europei per via dell'ondata di terrorismo? E la sua risposta, la risposta della commissaria, è: no, non siamo assolutamente pronti, non saprei da che parte cominciare, dice testualmente la commissaria europea. Quindi la questione, come vedete, è molto molto complicata. Allora abbiamo un ospite che insegna diritto della comunicazione all'Università di Parigi, il professor Giovanni Maria Riccio. Buon pomeriggio di essere con noi. Buon pomeriggio, insegno a Salerno. Per a Salerno, a Parigi, infatti qui chi mi ha fatto la scheda naturalmente ha identificato il tema, me ne dispiace, mi scusi. E allora, cerchiamo di capire da questo punto di vista la sentenza della Corte, che ovviamente non pensava alle nuove emergenze antiterrorismo, ma impatta o meno con quello che i servizi e i governi stanno chiedendo in queste ore? Sicuramente la sentenza della Corte di Giustizia è una sentenza che, come lei ha detto, prescinde rispetto a quelle che sono le tematiche del terrorismo. In realtà tutto parte fondamentalmente da quello che era stato lo scandalo Snowden. Esatto. E quindi quelle che erano state appunto le rivelazioni fatte da Edward Snowden, che ricordiamo appunto era un tecnico della CIA e della National Security Agency, sul controllo di massa che veniva operato dai governi statunitensi e dal governo statunitense e dal governo inglese sui dati dei cittadini e quindi su quelli che fondamentalmente erano l'utilizzazione delle reti telematiche da parte dei cittadini. La sentenza appunto poi diciamo parte da questa vicenda, che è una vicenda che viene ripresa da un attivista austriaco, che questo Schrems che citava già lei prima, il quale si rivolge al garante irlandese dicendo appunto fondamentalmente che gli Stati Uniti non offrono un livello di sicurezza nel trattamento dei dati e che quindi occorre invalidare questi accordi di Safe Harbor che consentono appunto il trasferimento dei dati personali tra Europa e Stati Uniti. Il garante irlandese rigetta questa domanda, la Corte di Giustizia invece accoglie quelle che sono le obiezioni fatte da Schrems e effettivamente invalida questi accordi di Safe Harbor dicendo che gli Stati Uniti non offrono quel livello di adeguatezza, quel livello di sicurezza, per cui non possiamo trasferire in base a questo semplice accordo i dati dei cittadini comunitari negli Stati Uniti. Da questo punto di vista ci sarebbe da dire una sentenza garantista, perché in definitiva gli Stati Uniti sono accusati di spiare troppo, per così dire. Questa sicuramente garantista. È una sentenza che tuttavia pone alcuni problemi, perché molto spesso questa sentenza viene fatta passare come una sentenza contro Facebook, contro Google, contro i giganti. Diciamo, sui giornali e alla fine l'interpretazione corrente è stata questa. L'interpretazione che è corrente mia. In realtà la cosa che non si dice è che la sentenza non ha bloccato il trasferimento di dati personali, nel senso che ci sono altri strumenti tra cui delle clausole standard che vengono inserite nei contratti che consentono ancora il trasferimento di questi dati tra Stati Uniti ed Europa e quindi in realtà l'impatto della sentenza, questa cosa è stata detta poco o forse in maniera non chiara, è fondamentalmente il fatto che Facebook e Google continuano a trasferire dati personali da Europa a Stati Uniti e viceversa. Tuttavia però questa cosa, cioè il fatto di dover ricorrere a degli strumenti contrattuali, quindi a dei contratti, non fa altro che aumentare quelli che sono i costi per le piccole e medie imprese che sono obbligate in un certo senso a trasferire questi dati, perché poi chiaramente bloccare il trasferimento dei dati significa bloccare anche i flussi commerciali tra Europa e Stati Uniti. Questo costo magari per Facebook e Google è un costo irrisorio, ma però una società piccola invece potrebbe molto essere un costo significativo. Ma poi professore dice, non c'è anche un altro problema, perché poi noi non dimentichiamo, noi non è che abbiamo una legislazione comunitaria unica sulla tutela della privacy, abbiamo ciascuno la sua bella autorità nazionale, l'ho ricordato prima, Soro il garante della privacy italiano, ciascuno le sue specifiche norme sulla tutela della privacy graduata in maniera diversa, più o meno attenuata a seconda del rilievo pubblico dei soggetti e così via. Questa dannata perdurante foresta delle normazioni nazionali, come fa i conti con l'invocazione di governi e servizi di questione da una parte e dall'altra con questo quadro invece che abbiamo visto preesistente, che nasce su un altro terreno, ma che dice noi comunque vogliamo più tutela della privacy rispetto agli Stati Uniti? Ma guardi, in realtà la legislazione in materia di privacy trova fonte proprio in una direttiva comunitaria, una serie di direttive comunitarie. Peraltro è al vaglio, sebbene poi sia stato più volte annunciato e più volte inviato, un regolamento comunitario, quindi una legislazione unitaria per tutta l'Unione Europea. Il problema piuttosto, a mio avviso, è legato al fatto che quando accadono queste situazioni di emergenza, come quella appunto di questi giorni in Francia, ci sono delle fughe in avanti da parte di alcuni governi. La proposta di Sarkozy in questi giorni, per esempio in Francia, quella di punire coloro che visitano i siti, i siti dei terroristi, è una proposta molto grave, perché va ad incidere non solo e non tanto sul profilo della privacy, quanto proprio sul profilo della libertà di informazione e di informarsi da parte dei cittadini. Del resto non è neanche una proposta nuova, perché Sarkozy aveva già formulato la stessa proposta nel 2012, quindi quando era al governo, dopo quello che era stato l'attentato di Tolosa, in cui addirittura aveva chiesto che fosse punito con 2 anni di carcere chi visitava abitualmente i siti i siti in cui, diciamo, c'era una sorta di apologia del terrorismo. In realtà io credo a questo proposito che il problema maggiore, del resto anche lei lo sottolineava, è legato al fatto che tutti questi provvedimenti finiscono per saltare quello che è il controllo da parte della magistratura, per cui si attua una sorveglianza di massa, esatto, che non passa appunto per il vaglio della magistratura. Che poi era la caratteristica dell'attività svolta dall'NSA, messa in rilievo con le fughe di notizie e la pubblicazione dei dati da Snowden. Corte di giustizia, ovviamente, assolutamente. Poi peraltro c'è da dire una cosa: il problema non è tanto sul raccogliere i dati. Io capisco quello che dice il procuratore Roberti, perché in maniera forse un po' tautologica dice il valore della vita supera la riservatezza, su questo siamo tutti d'accordo, ci mancherebbe altro. Bisognerebbe forse interrogarsi su quanto e su quali libertà, su a quali libertà vogliamo rinunciare, esatto. Per questa sicurezza, perché poi c'è un problema: raccogliere dati in maniera indiscriminata determina anche la difficoltà di utilizzare questi dati. Siamo davvero sicuri che conoscere tutti i movimenti dei cittadini, dove vanno, quando vanno posto, qual è il biglietto che hanno comprato? Io riconosco che alcuni possano pensarlo legittimo e giusto. Io, per la mia formazione liberale individualista, penso che questo sia il Grande Fratello, sia ingiustificato. Non mi fiderei mai di chi, al di fuori del controllo giurisdizionale, fa screening di massa utilizzabili poi per chissà quale criterio nell'ombra di una cupola dei servizi, con tutto il rispetto per il ruolo fondamentale che hanno i servizi. Non so come la pensa lei, ma io la penso così. Assolutamente, sicuramente. Peraltro poi in realtà bisognerebbe forse anche andare a riflettere su quella che è la psicologia del terrorismo, nel senso su quello che è l'utilizzo che il terrorismo fa dei social network, che questa diffusione di video che sono molto molto forti e che colpiscono l'immaginario, poi non si capisce quanto veri, quanto falsi. Lo diceva De Rosa sull'Espresso qualche giorno fa. In realtà il meccanismo non è tanto quello appunto del farsi vedere. In fondo abbiamo pochissime informazioni sull'ISIS, abbiamo molte informazioni viceversa che circolano sui social network attraverso dei canali non convenzionali e non tradizionali. Questo naturalmente non può portare però a controllare tutto, anche perché l'utopia del controllo assoluto, bravo, a mio avviso, non si traduce in una sicurezza. Del resto, voglio dire, tutte le misure che poi hanno determinato un inasprimento ed una riduzione fondamentalmente della privacy dei cittadini, penso per esempio alla legge Lopsi del 2011 in Francia, ancor prima al Patriot Act nel 2001 negli Stati Uniti, in realtà non hanno poi di fatto, purtroppo mi verrebbe da dire, impedito, tantomeno prevenuto. Non hanno, per così dire, dimostrato nei fatti queste le conseguenze positive di questo innalzamento dei livelli di ricerca a strascico sulla propria finalità dichiarata, cioè quella della prevenzione antiterrorismo. Grazie professor Riccio, sono d'accordo dalla prima all'ultima parola e mi scusi ancora, mi è scappato Parigi, invece era a Salerno. Che, figure. Grazie a lei, ci risentiamo. Noi ci invece con le vostre telefonate, cari ascoltatori, torniamo tra un minuto, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta e quindi adesso sentiamo le vostre opinioni su siete disposti a rinunciare a quali libertà, entro che limiti per avere più sicurezza. Intanto due brevi dalle agenzie. Renzi ha dichiarato che anche per l'Italia le spese di sicurezza dunque saranno fuori dal patto, è giusto e sacrosanto, e quindi quello che vale per la Francia varrà anche per l'Italia, quindi il governo modificherà evidentemente le poste della legge di stabilità con più spese per la sicurezza. Seconda cosa, nel settimanale dell'ISIS Dabiq, uno dei suoi strumenti di propaganda, si dice che la bomba esplosa a bordo del velivolo russo sul Sinai sarebbe stata contenuta in una lattina di Schweppes. Non so se crederci, se fosse così, comunque sapete che le lattine a bordo non si possono portare, quindi sarebbe stato un gravissimo caso di mancanza di sicurezza alle procedure all'imbarco a Sharm el Sheikh. Sentiamo le vostre opinioni, a cosa sareste disposti a rinunciare? Loredana da Roma, prego Loredana. Sì, buonasera. Buonasera. Ma guardi, credo che noi comuni cittadini siamo sottoposti già a sufficienti controlli. Mi sembra che negli ultimi tempi chi abbia voluto una stretta sui controlli siano state le classi politiche più che il singolo cittadino. Noi accettiamo sempre, mi sembra molto volentieri, norme di sicurezza. Siamo sottoposti, ripeto, a una serie di bombardamenti così, diciamo, di penalizzazione che tutto sommato accettiamo di buon grado. È qualcun altro che non li vuole. Esatto. E forse bisognerebbe concentrare su altri livelli e su altri target controlli in termini, diciamo, di ambienti finanziari, politici e non tanto sulla cittadinanza comune. La capisco, Loredana, questa sua opinione. Soprattutto siamo molto più controllati di quanto ciascuno di noi crediamo. Fabio, da Genova. Prego, Fabio. Buonasera, caro Giannino. Due cose volevo dire. Io sono un operatore della comunicazione ormai da 38 anni e a suo tempo mi ricordo all'inizio della mia carriera leggevo un certo libro di Vance Packard che si chiamava La società nuda, che è una lettura che consiglio a tutti. È un libro del 1900, fine degli anni 50, in cui appunto già si sottolineava il fatto che potevamo essere controllati. Per rispondere al suo quesito, io uno sono d'accordo con lei che non sarei disposto a rinunciare a niente per quanto riguarda la mia privacy, però la tecnica, la tecnologia ci hanno sopravanzato, nel senso che noi abbiamo questa grande spia che si chiama telefono cellulare, abbiamo il telepass, se andiamo allo stadio abbiamo la tessera del tifoso, cioè praticamente chi vuole controllare non c'è dubbio, può fare tutto, sapere quindi tutto. Praticamente a questo punto io dico, abbiamo la fiducia che qualcuno non lo faccia, ci fidiamo? Io non credo. Io voglio semplicemente, guardi, con Google Camera ciascuno di noi può essere ripreso dovunque, al chiuso, in remoto, può avvenire di tutto, come sappiamo un qualunque computer può riprendermi mentre io lavoro. Il problema è se questo lo rendiamo legale per tutti, guardi, il malfunzionamento e le deviazioni degli stati, non solo quello italiano, avvengono dovunque e quindi io ribadisco, non mi fido senza un controllo giudiziale, che significa che non si fa per tutti ma si fa solo su alcuni casi. Io la penso così, da vecchio liberale la penso così. Diego da Trento, purtroppo ti devo salutare e ringraziare, ma non abbiamo tempo per mandarti in onda, continuate con Radio 24, appuntamento domattina alle 8:15 con Attenti a noi due, io e Alessandro Milan naturalmente.